Domani, domani ho 30 anni e nessuno si è mai ricordato dei miei compleanni. Siete tutti compagni, ma io vivo di acciacchi e voi all'occorrenza fantasmi. Domani ho 30 anni e nessuno si è mai ricordato dei miei compleanni. Dopo un milione di sbagli siete come tiranni mentre pago pedaggi. Papà, dove sei? Dove sei? Non sai niente, non sai niente della mia infanzia e parli sempre. Tu non sai niente, non sai niente del mio passato e parli sempre. Tutti i giorni faccio turni, vivo solo come fossi un eremita. Avere un foglio e una matita in mano a volte mi sublima, lo studio è una pepita. Mi porta lontano, suono profano. In viaggio come Verne, vivo alla rinfusa. Ti lascio di pietra come la medusa. Un futuro stabile di serenità. Mi vesto come capita, giro la città. Hai una ragione per me. Sono il disturbo della quiete umana. Edgy, trashy, Barbie, baby, io ti voglio ancora, ma no. Non chiamarmi maschilista, io non voglio avere figli. Non sopporto i tuoi consigli, le riviste, i tuoi sbadigli. Mi dici che sono gay, ho soldi da parte, gioco al miliardario, non faccio aperitivi, non me la vivo come i finti divi. Nei centri commerciali sempre pieni di sorrisi. Non sono mantenuto all'università, non ho l'appartamento coi soldi di papà. Giro con la gente più piccola di me di 10 anni. E domani ho 30 anni, domani. Domani ho 30 anni e nessuno si è mai ricordato dei miei compleanni. Siete come briganti mentre vivo d'inganni e voi all'occorrenza miraggi. Voi all'occorrenza miraggi.